se parti ma non se vai. L'umim e l'uferico rinfrescono le menti a tutti sti bagnoni. Sinti di buono, siamo! Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche su del suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche su del suo ideali compa. Migrazioni di giovani in cerca di emozioni, tutti pronti a lasciare le proprie tradizioni, in cerca di qualcosa che il sud non dà. Ti sbagli, apri gli occhi e vedi qua. Poveri lussi, sti bagnuni si fanno fricari. E vabbè, ciamuni sopra che è meglio che studiare. Nessuno ti lo vieta, ma devi pur sapere che al sud c'è sempre tanto da imparare. Bologna meta preferita tra una canna e un concerto. E poi Milano, a non c'è sempre il cielo coperto. Se mi vanno pure a Roma e si imparano un dialetto e mando una fanculo la cultura e lo rispetto. Rispetto per la terra che li ha creati, per le famiglie che con sacrifici li han cresciuti. Con la speranza che a casa tornano prima e con respiro. Nulla vuole dire su ogni mattina. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche su del suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche su del suo ideali compa. Diploma preso a stento, la voglia di evacuare. A 20 anni zaino in spalla e sei pronto per partire per un'esperienza nuova. Lasci casa, amici e cuore, abbandoni la tua terra insieme al vento, al sole, al mare. Emilia paranoica dice lindo ma non tanto. Attrazioni di ogni tipo, per le torri intanto canto. Per la strada poi ritrovi il tuo dialetto in ogni punto. E con un niente la tua testa si ribalta nel Salento. Lo studio che va a puttane per dedicare il mio tempo al lavoro. Credevo come in un lusso coglione di riempirmi le tasche di oro. Ma intanto la terra chiama ed io non posso restare a pensare. Un abbraccio alle invece più care, risalgo nel treno per ritornare. Apri gli occhi giovane meridionale, qui la terra sempre chiama, non abbiamo solo il sole. Il tuo aiuto molto vale, sappilo è fondamentale. Per far crescere ogni giorno questo sud, non bastano parole. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una volta laureato non senti il dovere di tornare a casa e tutti fa sapere che una mente del sud si è affermata ed è pronta ad essere qui impegnata. Parole su parole è il nord che lo vuole. Non lamentarti sempre, fai il tuo dovere. Impegna la tua mente per il sud per piacere. Crea qualcosa per cui valga la pena parlare. Parla pure in dialetto e non ti vergognare. Scrivi una canzone, Gino Sapice affari. Gli è vero che ha imparato i lingue di tua nazione, ma della tua terra non ti scordare le tradizioni. Sei una mente del sud e tale rimarrai. Tra felicità e una marea di guai, prendi coraggio e fatti capace, amico mio. Apprendi ovunque vuoi, ma torna al tuo paese nati. Una mente se ne va, ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va, ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter dire la cruda realtà. Anche il sud è il suo ideali compa. Una mente se ne va ma sa che tornerà. Darà su di ciò che non sa, per poi poter